9 in punto, la versione di Oscar. Oh, buongiorno cari ascoltatori, buon 18 di aprile Galdino, e auguri a Galdino, questo almeno prevede il calendario liturgico. Anche oggi dorsi sono purtroppo confermati dalla raffica di notizie che ieri sono venute dal Fondo Monetario Internazionale. Le avete viste? Secchiate d'acqua ghiacciata per tutti i governi dell'euroarea che alle prese dal rientro del loro deficit del debito pubblico avevano annunciato trionfalmente di essere in grado di rispettare il fiscal compact, la regola voluta dai tedeschi per la quale l'azzeramento del deficit per noi era il 2013. Per questo è nato il governo tecnico l'anno scorso, ricordate, a novembre. Da qualche mese avevamo sommessamente cominciato a dire allo Stato drogato di entrate, perché drogato di spesa, al tossicodipendente che bisogna fermare, italiano, invece di assecondarlo, nella speranza che il governo tecnico servisse a questo, fosse un medico preciso, capace di impugnare il bisturi, di dare una cura precisa, perché non si può fare solo entrate aggiuntive perché la spesa è fuori controllo, tanto più in recessione, è un triplo errore. Eppure il governo fino a qualche settimana fa, a chi sommessamente faceva notare che con un arretramento del PIL in corso di queste proporzioni, le ipotesi sulle quali aveva fatto le sue manovre erano inevitabilmente purtroppo destinate a rivelarsi infondate, e quindi che cosa ci avrebbero proposto? La nuova manovra di entrate? Magari il governo opponeva un no strenuo, se non che il Fondo Monetario Internazionale, che voi possiate pensare del Fondo Monetario Internazionale, ha diramato una raffica di correzioni delle sue stime su come i diversi paesi stanno messi col deficit. Per esempio la Francia, che vota tra pochi giorni il primo turno, e attenti che gli ultimi sondaggi danno comunque Hollande che batte, socialista Hollande, Sarkozy al ballottaggio di un largo margine, questi sono ancora i sondaggi stamattina. Allora, per esempio, la Francia ha un deficit del 3,9% nel 2013, non del 3%, dice per esempio il Fondo Monetario Internazionale. Per l'Italia, leggete sui giornali italiani, perché a questo hanno dato molto spazio tutti, la rilevazione, l'opinione del Fondo Monetario Internazionale, secondo la quale, altro che 2013, qua il rischio di arrivare al 2017 per quello che riguarda l'Italia, addirittura. E da questo punto di vista alcuni giornali fanno discendere poi la conseguenza per la quale la spending review varata dal Consiglio dei Ministri è stata una delusione totale, per chiunque si aspettasse spazio ricavato per alleviare la pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa, perché in realtà noi adesso parleremo oggi con il nostro ospite anche di riforma del mercato del lavoro, ma la prima vera riforma per creare lavoro aggiuntivo lo Stato dovrebbe farla tagliandosi le mani, e cioè diminuendo il peso contributivo da ladri che c'è sul lavoro e sull'impresa, sul lavoro, e lo dico anche prima dell'impresa. Allora, questa sarebbe la vera riforma lancia lavoro. Questa riforma non c'è, e la delega fiscale l'avete vista, la spending review che si approssima non sarà niente se non manutenzione, ci ha detto Piero Giarda. In queste condizioni, poiché la Spagna ci farà ballare, per il Fondo Monetario ovviamente la Spagna non è in grado di raggiungere il 3% di deficit neanche nel 2018, la Francia ci farà ballare, oggi tutti i giornali europei non fanno altro che pubblicare editoriali su che cosa significano queste prospettive di austerità aggiuntiva che i governi dovranno imboccare su un PIL così fortemente in recessione, con un commercio intraeuropeo così pesantemente flesso, molto più di quanto ci si aspettasse. Ecco, alcuni come Martin Wolf oggi sul Financial Times ritengono che l'Eurozona può certo sopravvivere ancora un ulteriore giro di vita, ma solo se ci si riequilibra per esempio in termini di bilancio dei pagamenti tra Germania e altri paesi, cosa che fino a questo momento non si è vista. Poi c'è chi naturalmente difende invece la prospettiva della recessione aggiuntiva dovuta a giri di vite fiscali, sostenendo però che i giri di vite devono avvenire dal punto di vista dell'abbattimento della spesa pubblica e non dall'innalzamento delle tasse. Tra questi, per esempio, sul sito del Vox, Giancarlo Corsetti, Alberto Lesina, Francesco Giavazzi, Brad Long, tanti altri. Ma ho fatto questa introduzione solo per dire, e ci tornerò alla fine della trasmissione, che questo spiega perché, secondo me, stiamo ricevendo una marea di migliaia di lettere per l'iniziativa che abbiamo lanciato da due giorni qui su Radio 24, di cui ripeto l'indirizzo. L'iniziativa è quella di raccogliere le vostre voci di fronte agli imprenditori e ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi che si suicidano purtroppo ogni giorno in Italia, per quantomeno prestare un orecchio e dire: scriveteci, faremo tutto il possibile, all'indirizzo disperatimai@radio24.it. Devo dire che ci aspettavamo certo un certo seguito, ma il problema è che preferirei non averlo seguito, perché di fronte alle migliaia di lettere che sono arrivate e arrivano, l'imbarazzo corre il rischio di tramutarsi in sgomento, e lo sgomento anche perché c'è chi si muove di fronte a una crisi da mesi e mesi e da anni e anni così pesante, e c'è chi resta indifferente. Ecco, di sicuro, ci tornerò alla fine della trasmissione, di sicuro l'ospite che abbiamo oggi non è lui e la sua organizzazione tra chi resta indifferente. Poi si può essere d'accordo o meno, tenteremo di capirlo con le domande che gli faremo sulla loro visione e che cosa propongono. Però è con noi il segretario della CGIL, Susanna Camusso, e io di questo innanzitutto molto la ringrazio e la saluto. Buongiorno segretario. Buongiorno, buongiorno. Allora, cominciamo dal tema delle proteste, perché oggi qui ci sono Milano e Lombardia scioperi, ma insomma è un calendario di proteste e di scioperi forti. Da che, da quando la sua organizzazione li ha convocati, l'argomento numero uno sembrava, ed è rimasto però insomma tra i tanti, quello della riforma del mercato del lavoro, poiché il governo su questo a tutt'itto vi è venuto incontro, la protesta è diventata anch'essa per la prima volta, no, non per la prima volta, ma insomma in maniera significativa, secondo me, fortemente ha nel mirino la cosa che per la crescita qua c'è poco, e innanzitutto sul lavoro. Ho letto proprio i volantini che distribuite stamattina qua a Milano: meno contributi dovrebbe essere la prima cosa da fare per tutti, per creare più lavoro. C'è questa specie di spostamento del mirino nella vostra analisi e nelle vostre richieste, oppure no? Sì, senza dubbio, in realtà c'è da tempo, perché noi abbiamo detto lungo tutto il percorso di discussione della riforma del mercato del lavoro che andava bene provare a costruire nuove regole, soprattutto andava bene contrastare la precarietà, ma che di per sé le regole non avrebbero determinato la crescita di un solo posto di lavoro. E noi continua a parere questa l'emergenza, il fatto che non c'è lavoro, non se ne crea, se ne perde molto rispetto a quello che c'è, si fa fatica a mantenerlo. E soprattutto ci sono due generazioni che non riescono a entrare nel mercato del lavoro, oltre ai tanti che sono trovati fuori e senza prospettiva. Quindi da tempo noi dicevamo il lavoro deve tornare centrale, avevamo forse illusoriamente una speranza che la delega fiscale corrispondesse a una scelta di intervento sull'abbassamento la tassazione per il lavoro dipendente, per le imprese che investono, insomma, fosse indirizzato alla crescita, e le risposte che sono state date ci confermano che invece la crescita non è nelle corde di questo governo e dei provvedimenti che si fanno. Di fronte a questo giudizio, che è un giudizio secco che prende sempre più corpo, La proposta che può essere avanzata realisticamente, secondo lei, qual è? Perché qui il rischio è che ci troviamo questo governo che ci dica tra poco, forti degli indirizzi che vengono dal Fondo Monetario, che deve dare un'altra stretta, altro che liberare risorse per la crescita. E di fronte a questo che cosa si può pensare? C'è un'alternativa possibile, secondo voi, a breve? O bisogna aspettare un anno, le elezioni, eccetera? Guardi, io credo che noi non possiamo permetterci di aspettare un anno, nel senso che ne abbiamo già quattro alle spalle, tre persi durante la lunga stagione dei rinvii del governo Berlusconi, e credo che un altro anno questo paese davvero passi allo stato di disperazione. Purtroppo segnali se ne vedono già e non va bene, e non è una prospettiva possibile. Si può fare? Sì, noi diciamo da tempo che per esempio bisogna provare a cercare più seriamente le risorse dove ci sono e non continuare a gravare sui lavoratori dipendenti e sulle imprese. Abbiamo detto anche in occasione di quella che il Presidente del Consiglio chiama la prima patrimoniale, cioè l'IMU, che non aveva le caratteristiche di essere effettivamente una patrimoniale, ma di incidere e pesare ancora molto su chi comunque le tasse già le paga. Questa ci parrebbe la prima cosa. La seconda cosa che pensiamo sia essenziale cominciare a fare è provare a far partire davvero degli investimenti e quindi del lavoro, perché si sono varie volte sbloccati i fondi, si continua a dire che si fa il riordino dei fondi strutturali europei con la cabina di regia e le priorità, però tutto questo non si traduce nel fatto che concretamente parta del lavoro. Adesso non è che ci illudiamo che da un giorno all'altro si può passare dalla recessione allo sviluppo, però se si continua a fare solo provvedimenti recessivi diventa sempre più difficile immaginarsi un futuro. Poi, ovvio, sappiamo bene che finché la politica europea è questa, gli spazi nazionali sono strettissimi e sono pochissimi, però ci pare che non si usino neanche quei pochi spazi che ci sono. Cominciamo dalla riforma del mercato del lavoro. Che cosa si aspetta realisticamente che in Parlamento possa cambiare? Il mio giudizio è che realisticamente la parte, diciamo così, su cui si è concentrata tutta il più dell'attenzione, cioè il fatto che il governo abbia fatto un passo avanti verso le richieste che venivano dalla CGIL, ma anche poi dagli altri due sindacati e dal PD, per quello che riguarda le norme su licenziamenti economici, secondo me quello non si cambia più. Io mi auguro. Speriamo. No, non si cambia più, questo io penso che non si cambi. Poi c'è chi in Parlamento lo chiede, ma credo di aver capito dal governo che non si cambia. Vediamo se mi sbaglio e vediamo lei cosa pensa. Ma per la flessibilità in entrata, invece, la domanda che le faccio, il suo giudizio è che è stato sbagliato mantenere in vita ancora troppe tipologie di contratti diversi da quello puro apprendistato per entrare poi con più tutele a tempo nel tempo determinato, oppure la stima di chi dice con questa recessione, questi gravami in più, gli aggravi contributivi e tutto ciò in cui si configura il legittimo intento di dire non mascheriamo attraverso queste tipologie lavoro parasubordinato, perché bisogna dire basta allo sfruttamento di questo tipo, finirà però, essendo un po' eccessivo, a diminuire ulteriormente la domanda di lavoro per la piccola impresa. Si può cambiare questo secondo lei? È realistico questa valutazione o è sbagliata? Ma guardi, io tanto mi auguro che non si intervenga più rispetto ai licenziamenti, anche perché continuiamo a pensare che non c'è nessuna ragione in nessuna stagione, tantomeno in questa, di intervenire a facilitare licenziamenti illegittimi, poi perché di questo si stava parlando, visto che di licenziamenti ce n'è in una quantità assolutamente abnorme. No, questo sono d'accordo anch'io, ma una domanda così, per inciso, poi riprendo il filo discorso: ma voi lo sapevate che anche sul disciplinare il governo aveva messo la legge come principi generali per la reintegra, oppure siete nella stessa condizione delle imprese che dicono, hanno poi fatto sapere al capo dello Stato e al governo, che non ne sapevano nulla, l'hanno appreso semplicemente leggendo il testo del disegno di legge? Voi lo sapevate? Ma guardi, era in qualche modo obbligato, nel senso che se la norma deve essere una norma generale che poi viene applicata all'insieme del sistema, i riferimenti sono obbligatoriamente tutti e due. Non cambia nulla in questo, non ho capito l'atteggiamento di Confindustria, che mi pare quello che cerca comunque di ottenere un cambiamento sull'articolo 18 a prescindere, perché non è che esista una legge sui comportamenti disciplinari alternativa a quella dei contratti per quel che riguarda i privati, quindi mi pare davvero aver costruito un'altra occasione per sostenere, come Confindustria ahimè sostiene, l'idea di cambiare la soluzione, la mediazione costruita con il reintegro anche per licenziamenti economici. Dopodiché è vero che siccome sui pubblici c'è una delega bisogna discuterne, perché la normativa è assolutamente diversa, può essere quello il luogo dove definirla, ma la normativa deve essere unica e deve riguardare tutti. Quindi. Allora, andiamo alla rigidità in ingresso, se può creare purtroppo minor domanda da parte delle imprese. Ma guardi, il problema è che noi abbiamo fatto per 20 anni, anzi i governi hanno fatto per 20 anni delle politiche, con un'unica eccezione che fu quella sui call center, delle politiche di allargamento di tutte le forme possibili di entrata. Tutte forme che hanno costruito in realtà un lavoro povero e debole nel nostro paese, che ha determinato per alcune generazioni il fatto che il lavoro non permettesse una vita dignitosa, una vita autosufficiente. Se si vuole parlare di regole, di questo bisogna parlare. Io avrei capito un ragionamento che dice troviamo un tempo entro cui si fanno queste cose in modo che si possano regolarizzare. Quello che non capisco è l'idea che bisogna invece mantenere tutte le forme e continuare a deregolamentare modalità di ingresso che trasformano lavori autonomi in lavori subordinati che non vengono riconosciuti come tali. Questo davvero è incomprensibile. Devo dire che è stato incomprensibile anche l'atteggiamento del governo, però, che è partito dicendo che bisognava ridurre la dualità del mercato del lavoro, e alla fine anche l'unica forma su cui si era convenuto che non aveva nessuna utilità, che era quella dell'associazione in partecipazione, è stata riproposta come forma che rimane. Quindi mi pare che ci sia un continuo rinvio e non il coraggio di affrontare il tema che quelle forme di lavoro non hanno favorito una qualità del sistema produttivo del nostro paese, una sua prospettiva, hanno tutte indebolito in realtà qualità, formazione, capacità di competere, che uno si può dare un tempo per farlo, ma che l'obiettivo deve essere quello di riorganizzare un lavoro stabile. Segretaria, ma la realtà del mercato del lavoro, categoria per categoria, tipologia per tipologia di impresa, insomma artigiani, commercianti da una parte, la microimpresa dall'altra, i pochi grandi e le medie che per fortuna ci sono un po' cioè, le multinazionali tascabili italiane, questo sistema così diversificato consente ancora, secondo lei è utile pensare davvero che noi facciamo una legge imperativa e prescrittiva con le sue definizioni centrali per tutte le diverse tipologie, come se tutte le imprese, tutti i lavori, tutti i mestieri, usando il vecchio tecnico, fossero uguali? E non è questo un grande passo indietro rispetto al tentativo di affidare sempre di più alle decisioni tra le parti, nei contratti, settore per settore, perché artigiani, commercianti e piccola impresa poi in realtà con la media e grande hanno ben poco a che spartire come tipologia davvero di utilizzo concordato delle diverse figure professionali. Non è un grande passo indietro molto dirigistico, centralistico, che lede la legittima dialettica tra le parti, tentare di mettersi d'accordo nei contratti su come si utilizza e si fa per esempio il praticantato? Capisco che l'apprendistato debba avere un avviso generale pubblico, ma poi le modalità per utilizzarlo davvero devono essere standard per tutti? Noi abbiamo una tradizione pluridecennale nell'artigianato, per esempio, che è sempre stato all'avanguardia in questo. Le grandi imprese faticano di più perché se ne abbevano meno e secondo me sbagliano a capire, perché l'apprendistato dovrebbe essere davvero la via prioritaria per fare formazione di posto di lavoro. Ma non è un passo indietro questa visione? Questo è sicuramente un passo indietro, ma è un passo indietro che non deriva da questa discussione, deriva dalle scelte fatte sulla legge 30 e la 276, cioè sono quasi 20 anni in realtà che si è cominciato a pensare in nome della deregolamentazione, perché fatto in nome di questo, dell'idea che c'era la rigidità, si è continuato a produrre leggi che hanno appunto vincolato o sottratto la contrattazione, la discussione su queste cose. Invece bisognerebbe tornare all'idea dei principi regolatori, che devono essere principi di trasparenza, e poi la contrattazione. Le faccio un esempio: il contratto degli studi professionali, che è un contratto che riguarda moltissime persone anche se magari non se ne parla mai, è un contratto che ha regolato il praticantato, anche introducendo un po' di ordine, una retribuzione, le modalità in cui si fa, per cui la contrattazione ha continuato con molti limiti, ma ha continuato a provare a farlo, ma si scontrava anche con una moltitudine di leggi che permettevano tante cose. lei citava le piccole imprese, per esempio, che senso ha che una commessa in un supermercato sia una partita IVA, se non quello che, come dire, si viola il fatto che quello è un lavoro subordinato che deve essere esercitato. Eppure quello è un settore dove ci sono moltissime forme di flessibilità che sono anche state contrattate, dai part-time agli orari verticali a tutte le forme. Allora si è costruita in realtà anche attraverso le leggi precedenti una idea che qualunque forma di lavoro poi sarebbe stata regolarizzata e concessa. Da questa cultura bisogna ricominciare a tornare indietro. Poi io penso che molto lavoro debba farlo la contrattazione, più di quello che abbiamo fatto nel periodo precedente, ma che ci dovesse essere il segnale che non si poteva continuare a inventarsi una forma di lavoro al giorno, io credo che questo fosse necessario. Senta, prima di interromperci per due minuti di pubblicità, le chiedo, a lei, ai suoi iscritti, ma insomma, dovesse dire, nel mondo del lavoro, che impressione fa vedere amministratori di partito che restituiscono lingotti d'oro e diamanti? Pessima, dall'idea di un degrado intervenuto nell'amministrazione, nella politica, nella separazione tra la condizione dei cittadini e l'esigenza dei cittadini e la politica, e per questo c'è uno straordinario bisogno di una riforma profonda e rapida, proprio perché non diventi invece l'antipolitica l'unico argomento. E purtroppo da questo punto di vista io sono anche un po' stupefatto dal vedere però le posizioni dei segretari dei maggiori partiti che dicono che sì, più controlli, ma non si può rinunciare a niente. Com'è pensabile che mentre diciamo a milioni di italiani che devono pagare di più e rinunciare a molto e in prospettiva ad ancora di più, dire che partiti che almeno dai rendiconti spendono molto meno di quello che hanno avuto in questi anni non possono rinunciare a nulla? Io trovo che in questo ci sia un'altra fattura profonda per chi, tra chi conosce e vede la sofferenza che c'è nel mondo del lavoro, nel mondo della piccola impresa, nel mondo di chi tenta di tenersi in piedi, e poi la realtà delle istituzioni della politica che sembra fatta da marziani. Siccome io li conosco, non so che non sono marziani, il conto non mi torna. La versione di Oscar. Eccoci tornati qua in questa seconda parte, ospite della nostra puntata di oggi, Susanna Camusso, leader della CGIL. Se mi chiedete, alcuni dicono qualche indicazione in più su cosa scegliere sulla stampa europea per la crisi, guardate, l'intervento in cui Hollande, candidato socialista in vantaggio alle presidenziali, più esplicitamente fino a questo momento si candida come anti-Merkel in Europa, se vince in Francia, la trovate su Handelsblatt tedesco, e tenete conto che per questo lo spread francese sta facendo lo strappo verso l'alto più alto degli ultimi 10 anni, perché il mercato diventerà sempre più nervoso quanto più ci avviciniamo poi al ballottaggio, che ricordo tutti è il 5 e il 5 di maggio da questo punto di vista. Ricordo a tutti che la Germania è in ebollizione per i fatti suoi, per una strada completamente diversa da quella del dibattito invece che c'è in Francia, c'è in Italia, c'è in Spagna e così via. Se leggete su Frankfurter Allgemeine oggi troverete i resoconti di come una nuova iniziativa giudiziaria contro la Bundesbank e il Bundestag, e l'avvocato Bernhard Schunemann alla testa di una fondazione che riunisce imprese familiari storiche tedesche che hanno deciso di fare una citazione in giudizio perché Bundesbank e Bundestag stanno dando troppo agio agli altri paesi europei di fare quello che vogliono e di trascinare la Germania e il contribuente tedesco. Sapete che lì c'è un rilievo costituzionale per gli effetti che va al contribuente tedesco. Quindi, e guardate anche la copertina del Bild, che è una copertina che arriva a milioni e milioni di tedeschi, il giornale più popolare in Germania punta fino a 10 milioni addirittura quando va bene di copie. E la copertina è: qual è il nostro danno se la Spagna va in bancarotta? Cioè la piega delle copertine sulla Spagna sta prendendo esattamente la direzione che avevano quelle sulla Grecia diciamo 6 mesi fa, 7 mesi fa. La fine della conclusione dell'editoriale di Martin Wolf di oggi sul Financial Times, quello in cui dice l'Europa può sopravvivere, è meglio che ve la dica a conclusione, perché prima avevo detto che è vero che può sopravvivere, ma Martin Wolf su questo dice può sopravvivere, ma le prospettive sono di una crescente povertà e per alcuni la miseria, true misery. Devo dire che non è che solo leggerlo, è vederlo intorno a noi che inizia a diventare una cosa terribile a questo quarto anno e mezzo di crisi. Camusso, C'è chi rimprovera in realtà di aver pensato, finché c'era il governo precedente, troppo alla lotta muscolare perché era il governo Berlusconi. In realtà poi è venuto un nuovo governo e in questi mesi la quadra non si è trovata. Non si è trovata né per voi, qualunque posizione avessero i diversi sindacati nei confronti del governo precedente, qualunque diversa attitudine, diciamo così, al colloquio con Sacconi e il Premier, e non si trova nemmeno nei provvedimenti. Lei ha detto non possiamo aspettare un anno. Ragionevolmente si può ritenere, secondo lei, chi deve essere il PD nella maggioranza che sostiene il governo a capire che deve dire al governo che ci vuole un cambio di marcia? È questo quello che secondo lei si può ragionevolmente attendere? Ma io penso che debbano essere tutti a dire che c'è un cambio, ci deve essere un cambio di marcia, perché che questo paese si stia impoverendo mi pare che non c'è bisogno di grandi studi, probabilmente basta attraversare una strada, salire su un tram, provare a leggere le cronache, e si sta impoverendo quella parte del paese che poi è sempre quella che ha costruito la ricchezza del paese stesso, perché il lavoro è il suo futuro, perché sono i giovani che non trovano una prospettiva. In più mi pare che adesso si stia anche costruendo, e temo che sia obbligato dai fatti, l'idea che non c'è neanche speranza, che non c'è neanche il guardare a un dopo che in qualche modo possa farti traguardare un obiettivo. E allora penso che questo è il messaggio che deve essere dato. Peraltro la credibilità del governo Monti se l'era costruita sul fatto che si era presentata a novembre in Parlamento dicendo che le tre priorità erano il rigore, l'equità e la crescita. Il rigore è stato in parte nel continuismo con le situazioni precedenti, di equità ne abbiamo vista ben poca e crescita non vediamo nulla, quindi bisogna proprio ripartire da lì. Io credo che tutti, perché non penso che nessuno in questa stagione possa immaginarsi di avere una prospettiva se il paese continua a impoverirsi. Allora iniziamo a sentire un paio, almeno due o tre telefonate per far rispondere il segretario della CGIL. Cominciamo con Marco da Milano. Prego Marco. Sì, buongiorno. Scusate, sono in strada. Ecco, sono intervenuto perché ho ascoltato prima la signora Camusso sul discorso della commessa di supermercato e partita IVA. Il problema sussiste, lei ha ragione. Io rappresento una piccola azienda del settore della comunicazione e questo problema ce l'ha. Però il fatto di dire domani mattina non ho una partita IVA ma ho un dipendente, vuol dire al dipendente non ti do più i 1.000 euro, i 2.000 euro, i 3.000 euro che oggi prendi in busta, ma averne 2.500, 2.300, perché il resto io lo devo dare in termini di contributi allo Stato, che è giusto per l'amor di un Dio, ma non è questo il problema è che bisogna aggredire il costo del lavoro, cosa che questo governo non sta facendo. Lo so Marco, allora guardi, ti faccio concludere per chiedere, aspetta perché dobbiamo andare rapidi col tempo, è chiarissimo, noi siamo il paese che ha massimo di costo lordo alle aziende per lavoratore dipendente, minimo poi di salario netto in busta paga e il problema è il cuneo. Camusso, ma siamo sicuri che i sindacati e le imprese insieme non dovrebbero studiare una strategia per la prima volta davvero comune per non solo chiedere ma proprio per iniziare a manifestare insieme, un po' come fate voi, con iniziative un po' muscolare di fronte a un governo per fargli capire che deve scendere il cuneo fiscale altrimenti non c'è più lavoro né margine per offrirlo? Ma guardi, forse lei si ricorda che un anno fa qualche tentativo in questa direzione lo facemmo, associazioni di impresa e organizzazioni sindacali, di provare a indicare quali erano le priorità e indicare che una delle priorità per esempio era il fisco. Come e no? Il cuneo fiscale. Mi ricordo che alcuni poi moderati stupidamente dissero ci si mette d'accordo col nemico, senza capire che su questo o ci si mette d'accordo con quelli che hanno un interesse convergente oppure si è stupidi. Questa è la mia idea, ci tengo a dirlo perché quella stagione è stata bollata poi dico stupidaggini, perché poi alla fine abbiamo ottenuto niente, questa è la verità. Questo è il vero problema, ma io credo anche che ci si sia rapidamente dissociati rispetto a quella discussione, perché quando invece la priorità diventano i licenziamenti o quando come purtroppo è successo nel momento in cui si diceva qualità e caratteristiche della lotta all'evasione piuttosto che patrimoniale, le voci nel mondo imprenditoriale si sono molto divise e articolate, anche qui per usare cose recenti, quando ci furono le prime ispezioni fiscali in quei di Cortina, mi ricordo un coro di ululati rispetto al fatto che si violavano. Però vede che così ci distraiamo, perché così diventa la polemica sulle diverse forme di lotta all'evasione, mentre il problema è insieme chiedere al governo, guardate. Ma certo, ma però insieme chiedere, siccome nessuno può dire tanto ci sono i miliardi e quindi chiaro. Dove prenderli, certo. C'è un tema che si chiama redistribuzione, ma c'è quindi un tema di dove si prendono, e il vero problema su cui non ci si mette d'accordo, perché qui c'è nonostante tutto una profonda differenza di classe, è di dove si prendono, perché uno può immaginarsi che le prendi da chi ne ha e non da chi non ne ha più. Questo a me pare il vero nodo, oltre al fatto che se io ma penso secondo lei se c'è, ma secondo le due lei volte se che si è intervenuti sul cuneo tutte e due le volte, poi questo purtroppo non si è tradotto per esempio in maggiori investimenti da parte delle imprese. Esatto, perché il problema è che le imprese dicono abbiamo così pochi margini che ce li teniamo il più possibile per ricostituire dei margini. Il problema è, secondo lei, non si può trovare una convergenza oggi sul fatto che per abbattere il debito bisogna che lo Stato ceda intanto mattoni, che i mattoni sono meno recessivi che risolvere col conto economico di chiedere ancora di più a chi lavora? Cioè, su questo, io capisco che ci dividiamo su più patrimoniale a chi ha oppure una strategia diversa, ma almeno sulle cessioni, perché almeno questo il governo a me la lascia senza parole sul fatto che lo Stato di fronte al debito dica solo attingiamo dal conto economico invece che dall'attivo patrimoniale. Non è un po' singolare? Attingiamo dalle pensioni. Sì, dalle pensioni, dai salari, ovvio. Non è un po' singolare anche secondo lei? Ma sì, ma infatti mentre noi abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere che le imprese a partecipazione debbano essere un volano di investimenti e come tale non devono essere vendute, penso che invece ci sia tanto patrimonio immobiliare. Non penso a quello, come dire, non penso al Colosseo. Chiaro, niente vincolato. La ricchezza culturale e turistica del paese. Ma ci sono tante cose che invece si potrebbero fare, che presupporrebbero un livello di intesa con le amministrazioni locali un po' più significativo di quel che non c'è stato finora. Non mi è chiarissimo quali sono i soggetti che potrebbero intervenire oggi a investire, però è indubbio che da questo punto di vista non si è fatto nulla, e anche rispetto alla spending review la sensazione che si stia ancora dentro una pura logica di tagli in una logica di programmazione di una qualità della spesa, che è il vero problema che noi abbiamo, continua ad esserci. Penso per esempio a delle cose anche ai fini della non far crescere l'antipolitica, ma un provvedimento che per esempio escluda qualunque nomina politica in tutto il settore della sanità potrebbe essere un bel segnale per dire che si va invece a una gestione in termini di attività produttiva e manageriale, non di questa strana cosa che troppo spesso appare forme di finanziamento illecito. No, ma che i partiti nella sanità sono sbagliati di qualunque colore, questo è il problema. Naturalmente lei sa che a quel punto le direbbero ma questa è competenza regionale eccetera eccetera eccetera, però questo è anche uno degli argomenti per il quale la ragioneria dice no per esempio alla cessione dei mattoni, perché dicono no, ma questo diventa violazione poi dell'articolo 5, se vi rimaniamo prigionieri delle regole non faremo mai niente. Vede Oscar Giannino, c'è una cosa che non torna, perché si può violare l'autonomia delle amministrazioni locali per decidere una certa modalità sull'IMU. Brava. E poi non lo si può fare su delle cose che invece determinerebbero un vantaggio, allora ci si metta d'accordo. Si può levargli la tesoreria da un giorno all'altro, per carità, e quello si può fare. Senta, ma nel bilancio fino a questo momento chi è del governo che più vi ha sorpreso talvolta positivamente e chi negativamente? Perché io non ho capito, per esempio, se dovesse dare adesso un giudizio, non le voglio chiedere un giudizio personale, ma politico, sull'operato del ministro Fornero fino a questo momento, lei mi avrebbe detto fino a due settimane fa, immagino molto male, lo diceva, adesso forse un po' meno male. Ma poi il problema è complessivamente tra Monti, Grilli, Fornero e Passera, dovesse fare una scelta, Passera dove lo mettiamo? Tra quelli che ci deve ancora dire o tra quelli che per il momento ci ha detto e non ci ha convinto? Direi che tra quelli che non ci ha ancora detto, più il tempo passa più diventa grave, non ci ha ancora detto anche rispetto a tante vertenze che lì sono aperte e rimangono, come dire, senza prospettiva. Io poi penso però che ci sia, spero di sbagliarmi, ma temo di no, che ci sia un blocco che è costituito dal Ministero dell'Economia e dalla Ragioneria, che continua ad avere una puro atteggiamento ragionieristico, mi si permette. Ah sì, no, lo dico anch'io spessissimo. E non invece un'idea che bisogna partecipare di una responsabilità collettiva che è quella della crescita. E Fornero invece ha mutato giudizio su Fornero oppure no? Ma guardi, io penso che abbia sbagliato la riforma delle pensioni e che ne abbiamo degli strascichi pesantissimi a proposito di disperazione in giro per il paese, e penso che abbia costruito un messaggio, soprattutto utilizzando i giovani, molto lontano poi da ciò che ha praticato, quindi da questo punto di vista credo che ci sia un vero problema. Ma nei momenti più duri, quando c'è lo scontro più duro, riservatamente lei prende il telefono e parla con Monti, oppure preferisce, quando le cose sono dure, lasciare lì e vedere se gli altri cambiano idea? Dipende dalle situazioni, no? Io credo che non ci sia un comportamento univoco. Ci sono stati momenti in cui abbiamo alzato un telefono e parlato col Presidente del Consiglio, e altri momenti in cui abbiamo pensato che non era utile. E col Capo dello Stato capita? Sì, capita, è capitato, anche se devo dire il Presidente della Repubblica giustamente ha sempre l'atteggiamento di chi raccoglie delle preoccupazioni ma non entra nel merito delle singole questioni. Va bene, buona lotta e speriamo ci sia crescita per tutti, e bisogna però darsi una mano su questo. Ora saluto Susanna Camusso, abbiamo le informazioni stradali, gli ultimi minuti poi alla nostra campagna Disparati Mai. Ed eccoci, tornare con la musica dei Doors. Io voglio dirvi che delle veramente migliaia di lettere che stiamo ricevendo al sito disperatimai@radio24.it, le tipologie sono diverse, diciamo io ne uso uno a testa per tipologia, ma noi organizzeremo puntate intere dedicate a questo, e ci stiamo muovendo anche sul ragionare giornate intere dedicate all'orgoglio di impresa. Penso che sia l'unico. Ci sono tantissime lettere, come quella per esempio di Marco Minoia che ci spiega i suoi 1000 tentativi di lettere, curriculum inviati alle agenzie del lavoro, e qui c'è un problema in questa filiera di lettere, che il fatto che non c'è il matching tra domanda e offerta. Ci sono tantissime lettere, come quella di Barbara Donna, che ringrazio, di coloro che vogliono rendersi utili per aggiungere la propria voce alla rete di professionalità pubbliche e private che ci sono, si sono attivate in questi giorni. In quest'ultimo minuto noi abbiamo purtroppo solo all'ultimo secondo, oggi siamo in ritardo, Maurizio Flammini, collegato per la nostra quotidiana recensione delle iniziative che sono in corso. Stasera c'è una fiaccolata a Roma sui temi di cui ci occupiamo qui, contro la disperazione e contro i suicidi. Maurizio Flammini, grazie, buongiorno, com'è l'iniziativa di questa sera a Roma? Buongiorno, oggi abbiamo diamo un grande significato a questa iniziativa che ci sarà al Pantheon alle ore 20, tutte le associazioni imprenditoriali e tutti i sindacati insieme, per la prima volta veramente, faranno questa manifestazione. Il mondo produttivo del lavoro vuole dare un segnale di unità alla politica, si può e si deve essere uniti. Abbiamo molte richieste da fare, vediamo un futuro difficile, dobbiamo cambiare. A che ora? Alle 20 al Pantheon? Alle 20 al Pantheon. Alle 20 al Pantheon, Federlazio di Confapi, Unindustria, tutti i sindacati, tutti coloro che ci ascoltano a Roma, andateci per testimonianza. Per tutti gli altri scriveteci, disperatimai@radio24.it, a domani. 9 in punto.